grazie professor Wickham, che è il noto professore inglese Mark Warren per la squadra italiana, come Manzer già per la Ferrari. Noi sfruttiamo molto interesse per una regione che ha tradizioni particolari a riguardo del signorino. Grazie. La signoria rurale in Toscana einige Interventionen auf Deutsch. Ich muss sagen, dass hier sind wir sich übersetzt als nicht als Grundherrschaft oder als eine andere Herrschaft, vielleicht eine Gerichtsherrschaft. Die Idee von Gerichtsherrschaft ist besser in dieser Situation, denke ich. Bene, per tornare all'italiano. Se noi andiamo a leggere documenti toscani relativi al periodo centrale del Medioevo, alla ricerca di paralleli e contrasti con altre parti d'Italia, colpisce la scarsità di riferimenti al sistema signorile presente nei testi. Praticamente non esistono documenti sui tribunali signorili come quelli provenienti dalla Lombardia orientale recentemente analizzati in modo così stimolante da Fonso M. No. Non ci sono nemmeno molte sentenze consolari riguardanti i signorili. Anche per quanto riguarda le carte private, i riferimenti alla signoria sono, sebbene più frequenti, comunque più rari che in altre regioni d'Italia. È almeno evidente che in alcune parti della Toscana i rapporti signorili non costituirono una parte sufficientemente formalizzata del diritto della proprietà terriera da diventare una norma nelle formule di pertinenze utilizzate dai notai. Questo si tratta dunque di una reale differenza o solo di una diversità delle formule? Io direi che la differenza sia proprio in termini reali. La signoria e i rapporti signorili in generale furono meno importanti nelle aree più popolose della Toscana che in quasi tutte le altre regioni italiane. Inoltre, le signorie apparvero tardi in Toscana. Prima del 1070 esistevano a malapena ed erano virtualmente ristrette a famiglie comitali e a poche grandi chiese prima del 1100. Anche in seguito, esse delle volte non assunsero una fisionomia compiuta fino alla fase finale del XII secolo. E per la verità, le uniche prove a nostra disposizione dei diritti signorili istituzionalizzati in molte aree sono reperibili nell'atmosfera molto più contestatoria del XIII secolo, un contesto in cui, peraltro, tali diritti avrebbero subito un rapido declino, lasciando la Toscana basso medievale e in particolare le repubbliche di Firenze e Lucca, come ci ha mostrato Titurini, quasi senza alcun residuo signorile, ancora una volta in contrasto con gran parte di questa penisola e indubbiamente con il resto dell'Europa. Ho già detto altrove che questa particolarità toscana mi sembra aver molto a che fare con la sopravvivenza della Marca di Tuscia come forte potere provinciale fino al tardo XI, fino alla guerra delle investiture e alla comparsa degli stessi comuni cittadini. I marchesi non potevano naturalmente impedire la personalizzazione e la patrimonializzazione de facto dei poteri ufficiali, che si andava verificando nel corso del XI secolo in tutta Europa, ma furono in grado, almeno finché ne ebbero il potere, di impedire che questo processo ricevesse legittimazione come fondamento di una signoria privata formale. Recentemente è stata ridimensionata l'importanza dei diplomi di Berengario I, che apportavano Placitum et Districtum come reale origine dei poteri territoriali signorili, e ciò, a mio parere, del tutto legittimamente, ma essi fornirono almeno un modello per il tipo di signoria privata che si sarebbe poi sviluppato da noi. questi diplomi sono assenti in Toscana. E prima del 1100 i marchesi di Tuscia non mostrarono interesse per il tipo di ordinamento politico decentralizzato abolito per diverse ragioni, da Bergoglio I e dagli autori. Non a caso i riferimenti ai diritti signorili appaiono in primo luogo in aree nelle quali il potere nazionale non fu mai forte, per esempio le zone non urbanizzate della Toscana meridionale e anche la zona aretina. Come non è casuale il fatto che tali riferimenti cominciano ad apparire in altre aree solo quando l'estesa autorità dei conosce si è indebolita. La questione relativa a quando, come e in che misura le signorie si svilupparono nelle diverse parti della Toscana non può essere semplicemente ridotta al destino del potere nazionale, ma le due questioni sono associate in modo sufficientemente chiaro da giustificare la descrizione di questo studio a Marco. Il principale punto di riferimento cronologico in questo studio sarà se prevedere un XII secolo lungo, dal 1080 fino al 1220 circa. Abbiamo documenti sufficienti per questo periodo da permetterci di ricostruire una geografia approssimativa del signoria cristiana. È importante notare, prima di discutere questa geografia, come i componenti standard dei diritti signorili in Toscana fossero gli stessi di quelli trovati altrove in Italia nello stesso periodo. Placito nel districtum, cioè poteri giudiziari, guardia e altri servizi di custodia, albergaria, cioè ospitalità, telonia, pedaggio, ripartica, pedaggi, amasciamento, diritto di chiedere denaro per le tratte in un procedimento dipendente, opere di vari tipi, e più tardi nel corso del secolo dazio, accatto, mofobro, imposti generali. Questi obblighi, che in Toscana si chiamano spesso servizia, in parte implicavano un diretto controllo da parte del signore sui suoi sottoposti, che veniva espresso ritualmente da giuramenti di fidelitas e obbedienza. In parte, invece, essi prevedevano semplicemente l'invenzione e la regolarizzazione di nuove modalità di esigere surplus dai contadini. Come accadeva altrove, questi termini cominciarono presto a confondersi e a cambiare di significato. Per esempio, servizio poteva semplicemente significare canone. Come altrove, questi potevano singolarmente o in gruppo essere computati in singoli pagamenti in natura o in denaro. Ma forse più importante, ancora una volta come altrove, è il fatto che questi diritti fossero talvolta rispetti ai possedimenti fondiari di un signore, mentre altre volte erano estesi a tutti gli abitanti di un dato territorio, sia che fossero proprietari indipendenti che coltivatori dipendenti. E sulla scorta di Cinzio Violante parlerò in questo senso di signoria fondiaria e signoria territoriale. Comunque, cioè, tutti questi sono parallelismi con altre parti d'Italia, ma la vera forza del potere signorile rappresentato da tali tributi fu molto più discontinua. La Toscana del XII può essere approssimativamente divisa in tre aree, come ho messo in evidenza in una di queste mappe allegate, e questo che ha il mobilo. In una prima area, ristretta ai territori della Toscana e a Pisa, le signorie territoriali sono assenti a tutti gli effetti. Invece nella seconda, comprendente il resto delle zone urbanizzate e densamente popolate del nord e del centro di Toscana, le signorie esistevano, forse anche dappertutto, ma solo raramente erano potenti al punto da dominare le vite dei loro abitanti. Invece, nella terza area, nel sud, scarsamente popolato e non urbanizzato, e anche in alcune zone degli Appennini, principalmente ma non unicamente le aree controllate dai guidi, il potere signorile era molto più forte, talvolta addirittura totalizzante, come nelle signorie più oppressive della penisola, per esempio quelle del confinante Lazio nel dello sviluppo duecentesco, come è stato messo in evidenza di recente da Sandro Carocci. Questa suddivisione, va detto subito, non è sempre non è semplicemente in correlazione con i punti di forza e di debolezza della marca dei Canossa. I canossiani dominavano sul territorio non signorile di Lucca, ma anche a Margiori, che era successivamente una roccaforte dei Guidi. E poi il loro potere era debole sicuramente nel signorile sud, ma anche nell'Aretino, dove è difficile riscontrare la presenza di signorie di tipo veramente forte, a parte sul versante orientale che sfuggiva al controllo del vescovo conte di questa diocesi. Questa mia divisione sembra essere correlata in una certa misura all'egemonia urbana, ma anche lì esiste una chiara distinzione tra Pisa e Lucca da un lato e le altre città maggiori dall'altro, Pistoia, Firenze, Arezzo, Siena. Anche se le signorie fossero in genere più deboli in vicinanza delle città, mi sembra che si possa sostenere che solo nei primi due casi esse fossero veramente assenti. Ma poi questi erano senza dubbio le città più importanti intorno al 1100, allora anche questo forse si spiega per Citorno. Anche sarebbe interessante poter caratterizzare le sfumature del potere signorile con ancora maggior accuratezza. Interessante ma impossibile per mancanza di dati, anche se i documenti postali sono relativamente numerosi. Nel XII secolo normale, voglio dire, ne esistono quasi 10.000. È tuttavia evidente che tali sfumature siano esistite. In questa seconda area precedentemente delineata si possono facilmente rilevare contrasti. In alcune zone le signorie territoriali sono indistinte o scalzate da signorie fondiarie e rivali, oppure sono caratterizzate dall'esazione di solo una parte della normale gamma di diritti signorili. In altre aree, invece, i signori sembrano essere più potenti, più orientati verso l'attività militare e la riscossione dei tributi, e talvolta possiedono anche più terre. E poi, nella mia terza area, vi è una chiara distinzione, per la verità presente anche altrove in Italia, tra le signorie dove i signori possiedono tutte o la maggior parte delle terre e quelle dove questo non si verifica. Tuttavia, queste differenziazioni non possono essere facilmente visualizzate su una mappa. Si tratta di contrapposizioni di carattere estremamente locale. Sono variabili talvolta addirittura da una signoria al prossimo. Ne posso affermare a questo punto di aver portato la termine l'impresa quasi impossibile e forse inutile di studiare ogni microregione della Toscana che costituirebbe il necessario supporto per tale mappa. Altri studi direzionalanno considerevolmente questi lineamenti. Cercherò comunque di caratterizzare sommariamente le città territoriali toscane, nell'intento di cogliere il senso dei tipi di differenze all'interno della regione nordicesima. Lucca, come si è già detto, era circondata da un territorio quasi completamente privo di signorie. Questa zona, l'Est Emilia, fu dichiarata territorio speciale da Enrico IV nel 1081, anche se probabilmente quest'ultimo si limitò a legalizzare una zona preesistente di dominio cittadino de facto. Al suo interno, la Iura Vescovile di Moriano era l'unico territorio sostanzialmente signorile. E l'unica altra forma di potere signorile nelle Sedilie era connessa alla sottomissione personale dello strato più basso dei coltivatori dipendenti, che si chiamano Aluca Manentes. Queste Sedilie sono una piana. Sono la parte più popolare della Lucchesia, sono comunque solo un quinto dell'area della diocesi. Fuori di essa, alla fine del XII, è individuabile una fitta rete di territori signorili basati sui castelli. Luca aveva stabilito la sua egemonia su tutte queste aree entro il 1180 a più tardi, eccetto i castelli a sud dell'Arno che gravitavano su Pisa. E infatti l'aristocrazia diocesana lucchese tendeva ad essere basata sulle terre, sulle decime e sui diritti sparsi su larghi tratti della diocesi, ed era in gran parte relativamente disinteressata al potere indipendente locale. Questi castelli potevano essere altamente militarizzati e attivi in modo autonomo, ma a parte scarsissime invece Pisa. Anche qui c'è un immediato entroterra in Val d'Arno che aveva delle caratteristiche simili alle Seviglie, anche se questa volta non era stato definito giuridicamente. Qui, anche qui le signorie sono rare, e anche se c'erano, come la Casciavola prima nel 1100, che torna a Casciavola, non duravano a lungo. Anche i castelli non dovevano sviluppare alcuna forma di struttura politica privatizzata, come si può per esempio chiaramente vedere nei numerosi documenti relativi a Calci. In aree settentrionali e orientali di queste diocesi invece si trovano signorie territoriali, specialmente attorno ai castelli orientali come Vientina, Vico Pisano, analoghe a quelli nella confinante Val d'Arno lucchese, e poi al sud di Livorno, all'inizio della Maremma, il potere del vescovo era forte in centri come Rossignano. In effetti a Rossignano e a Vientina c'era già una signoria territoriale nel 1120, presto, cioè rispetto a gran parte della lucchesia. Tutte queste zone rientrarono comunque notevolmente nella sfera di Pisa, la quale mirava ad espandere la sua influenza non solo all'interno della diocesi, ma all'esterno, sia ad est che a sud. Testi provenienti da due tribunali signorili, a Rossignano nel 1142 e a Travalda vicino all'Arno nel 1174, testimoniano la pesante influenza della città su entrambe. Infatti l'aristocrazia pisana, come quella lucchese, era molto più interessata a partecipare alla gestione della politica cittadina che a stabilire baluardi di signoria privata contro i poteri urbani. Questo è il salto per mancanza di tempo, mi scuso con gli storiesi che si sono in aula, lo stesso per Arezzo. Invece a Firenze c'è una realtà diversa. Per cominciare, il suo doppio contado, perché includeva la diocesi di Fiesole, era estremamente vasto. Questo misurava quasi come le tre diocesi ad ovest messe insieme. Il suo territorio era anche estremamente eterogeneo dal punto di vista geografico e per la maggior parte relativamente difficile accesso dalla città, anche quando le campagne sono popolate, come per esempio in Chianti. Qui l'aristocrazia rurale sembra essere stata, almeno dopo il 1100, non solo meno coinvolta nella politica cittadina rispetto a Lucca o a Pisa, ma anche sempre più radicata localmente. Si può individuare una rete di signorie gravitante su castelli in ogni angolo del contado. Si tratta di signorie sia laiche che ecclesiastiche, dal momento che le chiese più ricche di Firenze non erano esclusivamente sul territorio urbano, cioè il vescovo capitolo della Maria Fiorentina, ma anche in aree rurali, tipo grandi e molto ben documentati monasteri come quello di Casignano. Ci avrebbe qui potuto essere spazio per un notevole sviluppo di una dominazione politica locale basata su un sistema coerente di sfruttamento di diritti signorili. Tuttavia, ciò si verifica solo molto sporadicamente prima del 1100. E come sosterrò in seguito, quando tratterò i casi di Figli e Passignano, Le signorie territoriali fiorentine potevano in realtà essere notevolmente prive di coesione e, per la verità, marginali dal punto di vista politico. Cioè, apparati di diritti signorili, sia fondiari che territoriali, venivano a sottoporsi gli uni agli altri ed erano utilizzati politicamente in modi molto ad hoc. Il contado era molto militarizzato, ma ancora una volta non mostrava una presenza eccessivamente signorile. E per questo motivo il Fiorentino è un buon esempio per comprendere il funzionamento e i limiti della signoria debole. Anche se, almeno dopo 1150 circa, nel contado fiorentino, molto più che nella Toscana del nord-ovest, si trovano testimonianze di legami quasi signorili a contadini di condizione semiservile, cioè l'equivalente ai manentes della Lucchesia, che qui si chiamano coloni ovinani, che sono molto più assoggettati che non in Lucchesia. Segno, a mio parere, che i poteri signorili siano nel complesso più sviluppati nel fiorentino che non nell'ovest. Per tornare più brevemente a Siena, simile a Firenze, in quanto i maggiori signori rurali si tennero a lungo molto più a distanza dalla gestione della politica cittadina, restano per la verità ai margini del contado senese, che fu sempre di dimensioni maggiori rispetto alla diocesi. Siena infatti è il tipico esempio in Toscana di una città che si estendeva deliberatamente in tutte le direzioni attraverso la sottomissione formale di signori rurali, che è d'altronde un'impressione accresciuta dalla registrazione da parte del comune degli accordi in un registro comunale superstite di carattere vecchio. Non è che abbiamo così tanta documentazione del senese prima del 1200, questo rende difficile dire in che misura tali poteri rurali fossero fondati su stabili territori signorili, probabilmente meno nel nord e nel nord-est che ad ovest e al sud-est, a quanto pare. Per quanto riguarda la zona del sud, comunque, non vi sono dubbi, qui le signorie erano decisamente forti. Il tratto spopolato tra Siena e la costa fu occupato sistematicamente da parte della città nei due secoli dopo il 1100. Nelle testimonianze di questa occupazione, i territori signorili e i diritti ad essi associati sono predominanti. Qui siamo nell'esteso territorio non urbanizzato della Maremma, dominato a sud dal comitatus degli Aldobrandeschi, un vero e proprio stato, con la propria rete di signorie adesso sottoposte, e a nord più vicino a Pisa dai Gherardeschi e i loro vassalli. La struttura sia politica che economica di questa intera area era di tipo signorile, stendendosi dalla signoria montana del monastero di San Salvatore a Monte Amiata ad ovest, in direzione ovest, fino alle miniere di argento intorno a Massa Marittima. Queste ultime aree di miniere mostrano, unicamente in Toscana, la presenza di una rete di sfruttamento economico basata in modo sostanziale sui diritti signorili piuttosto che sulla proprietà terriera. Poi in altri luoghi del sud, come per esempio Subreto oppure Trequanda, stanno tutti sulla carta, i poteri signorili erano così estesi che perfino le compravendite di terre allodiali erano soggetti all'approvazione e alla tassazione da parte dei signori. E poi, altro modello, altrettanto raro in Toscana, quello prospettato dai documenti riguardanti alcune zone dell'Amiata. Qui la proprietà terriera era così totale e i poteri signorili così estesi che gli obblighi risultanti vennero effettivamente a confondersi. Tutti questi sono comunque modelli che hanno dei forti analoghi fuori dalla regione. Le signorie della Maremma erano marginali in Toscana e c'è una forte tradizione storiografica toscana che le considera strane vestigia destinate ad essere assorbite in un sistema politico urbano più avanzato, sia pisano che senese, ma è proprio qui che la Toscana fu in verità più simile al resto dell'Europa. Finora mi sono limitato a una descrizione francamente superficiale. Più interessante sarà di tentare di approfondire in modo più analitico questa materia. Tratto in questa sede tre temi: la questione delle origini dei diritti signorili in Toscana nei suoi vari sviluppi, il confronto fra signorie e comuni, sia urbani che rurali, e il funzionamento interno dei diversi tipi di signoria, che per molti versi è il punto più importante che provo, se c'è tempo, di analizzare più in dettaglio. Salto purtroppo due altri temi che segnalo come pubblicità i rapporti fra la signoria e il colonato e finalmente i cambiamenti istituzionali dei poteri signorili intorno al 1200 e in seguito, questi vedrò negli anni. Prima dunque il problema delle origini. Quando comparvero le prime strutture politiche civili in Toscana? Queste strutture, come è ben noto, si svilupparono partendo da due direzioni, cioè dall'alto verso il basso, per concessione, usurpazione o imitazione dei poteri pubblici, e dal basso verso l'alto, attraverso la formalizzazione e l'estensione di una dominanza politica preesistente sia su coltivatori dipendenti all'interno di proprietà aristocratiche o ecclesiastiche che su piccoli proprietari già nelle clientele dei signori. Già in epoca carolingia i signori avevano un'egemonia de facto sulla maggior parte dei coltivatori, dipendenti o indipendenti che fossero. Ma i diritti signorili segnavano la legittimazione di questa egemonia, la sua cristallizzazione in una serie di chiare regole e poteri, come pure la sua estensione a nuovi ambiti, come i poteri di giustizia definiti territorialmente. Queste osservazioni sono vere per tutta Europa, ma le modalità di privatizzazione del potere variarono da regione a regione, grazie alla presenza di parametri più locali. Prima di tutto, il successo che ebbero i poteri pubblici nel conservare strutture politiche di tipo carolingio, poi i cambiamenti dell'identità aristocratica, l'estensione delle proprietà aristocratiche e il livello di concentrazione o frammentazione di tali proprietà nelle singole località. Abbiamo già sentito di questo tipo di discussione nell'ultima lezione. In Toscana, come ho detto, i marchesi non sostennero affatto forme di potere privatizzato. Non c'è traccia di un indebolimento della loro egemonia fino alla morte di Beatrice nel 1076 e alla rivolta a Lucca del 1080. Per comprendere il passaggio al potere signorile, dunque, si deve considerare le attività degli stessi aristocratici nelle loro aree locali nel corso dell'undicesimo secolo come sfondo dell'analisi dei primi riferimenti ai signorili, ai diritti signorili nei nostri documenti. In Toscana le concentrazioni di grandi proprietà terriere non dominavano certo il paesaggio. Le eccezioni principali si trovano tutte sulla Miata e il Maremma. Altrove, infatti, la proprietà terriera era molto frammentata, quasi nessun villaggio era controllato da un singolo proprietario e la maggior parte dei territori di villaggio contenevano proprietari che coltivavano le proprie terre, spesso numerosi. E infatti nelle zone della Toscana che sono ben documentate, all'inizio del XI secolo si può notare la presenza di gerarchie locali molto complesse con una miriade di differenziazioni di status fra il povero libero e l'elite di villaggio, e più alto ancora troviamo vari strati di proprietari più abbienti che possedevano terre in numerosi villaggi o addirittura in numerose parecchie diocesi. Questa situazione non cambiò quando i più potenti fra questi proprietari cominciarono a rivendicare i diritti civili. Se ci fosse in Toscana una rivoluzione feudale, sicuramente non comportò mai l'espropriazione di proprietari contadini, come avvenne invece ad esempio in Catalogna, direi anche adesso. In Toscana i proprietari, questi proprietari dovettero semplicemente riconoscere l'autorità politica del nuovo strato signorile. E anche per quanto riguarda i contadini dipendenti, normalmente il canone per l'affitto delle tenute e i tributi signorili furono tenuti nettamente separati. Il perdurare di forme di proprietà terriere estremamente frammentate nella metà settentrionale della mia regione va in effetti interpretato come un principale motivo per cui i diritti signorili erano relativamente deboli. D'altra parte, in Toscana, come altrove nel XVIII secolo, si assiste a una crescente tendenza fra gli strati più alti dei proprietari a militarizzarsi, ovvero ad essere definiti e descritti come milites o lampardi. Anche all'interno della struttura pubblica della marca, dal momento che questi proprietari si andavano definendo in termini militari, e come pare si stavano creando un'identità aristocratica per loro stessi, invece di riceverla da una più alta autorità, ci si può aspettare che la dominazione privata locale fosse per loro un possibile passaggio successivo. Per questo motivo gli storici si concentrano sul processo dell'incastellamento. Non solo perché i castelli sono facilmente identificabili nelle fonti, ma soprattutto perché questi sembrano rappresentare una forma di difesa o anche attacco militare personalizzata che collima con altre forme di potere privato sulla terra. E bisogna anche costruirli fisicamente. Tale obbligo, che ricadeva presumibilmente sui coltivatori dipendenti, è un uso, cioè nel senso letterale un sopruso, imposto al di sopra dei normali canoni testimoniati dai contratti agrari. E la grande maggioranza dei più di 1000 castelli costruiti in Toscana fra il 900 e il 1002 è infatti documentata proprio nel XIX secolo. I castelli in Toscana del Nord non si presentarono comunque, almeno all'inizio, come strutture imponenti. Qui, ovvio che non possiamo discutere le complessità dell'incastellamento toscano, ma si può affermare, generalizzando, che la maggior parte delle prime fortificazioni private del periodo risulta dai documenti di essere state di modeste dimensioni e di aver avuto un scarso impatto sui modelli insediativi delle aree circostanti. Moltissimi sembrano essere stati semplicemente il risultato della fortificazione di preesistenti curtes, ovvero centri aziendali. Infatti, recenti scavi archeologici di castelli toscani sembrano confermare le ridotte dimensioni degli stessi nel primo periodo dell'incastellamento. Castelli di questo tipo sono ovviamente il segno di una società militarizzata, ma si inseriscono anche in una continuità di strutture di proprietà che sarebbe durata per qualche tempo. Possono dunque essere visti come la rappresentazione materiale del nuovo stato militare, ma non indicano necessariamente l'esistenza di nuove forme di dominio. Il tipo di rapporti generati dalla presenza dei castelli può essere meglio avvistato in uno dei testi più famosi, più citati sullo sviluppo dei diritti signorini in Toscana, che è l'appello degli abitanti di Casciavola all'arcivescovo e al console di Pisa, databile dal 1100 all'incirca. I contadini proprietari di Casciavola, un piccolo paese sulle rive dell'Arno, gli raccontarono dettagliatamente la loro versione degli misfatti compiuti dal signore del vicino castello di San Casciano. I contadini affermarono di aver prestato servizio di guardia al castello, cioè Waiter si chiama, a San Casciano, apparentemente per alcuni decenni, in cambio del diritto di rifugiarsi. Inoltre riferiscono di aver pagato 2, in seguito infatti 3 carichi di legname ogni anno per il riuso del bosco. Si tratta decisamente di obblighi che noi chiameremmo giudizi rigidi, si chiama uso, senz'altro, ma su una scala molto ridotta, ed erano considerati dai contadini come quasi contrattuali in cambio della protezione offerta dal castello. Seguì perché, quando il castello fosse distrutto, probabilmente negli anni subito dopo il 1070, i tributi non avrebbero più dovuto essere richiesti. Ciò non avvenne però. Evidentemente i signori locali vedevano il loro dominio come più permanente di quello che pensavano i contadini, che sono presi. I cacciatori si dovettero rivolgere alla Marchesa Beatrice per far desistere i signori di San Casciano. Ma in seguito cominciarono le guerre. Omnes potestas perdidit virtute, et justitia morto ad est, et perilis de nostra terra, come dissero i contadini, frase famosa. E i signori iniziarono ad attaccare il villaggio con violenza sistematica. In questo contesto, allora, i contadini cercarono aiuto dal nuovo sistema di governo locale, il comune di Pisa, ottenendo probabilmente un certo successo, perché infatti Casciano è vicino a Pisa e non vi è più traccia di una signoria dei da San Casciano in alcun testo posteriore. Ora, questo appello è unico nel suo genere. Non c'è altro documento toscano così esplicito riguardante le precise modalità dei soprusi simili sui contadini prima del 1100. È ovvio che è unilaterale, ma comunque ci offre un resoconto plausibile di come la signoria locale poteva svilupparsi, mostrando chiaramente che la costruzione di un castello in sé stessa generava fra i signori e i vicini proprietari un sistema di rapporti clientelari che si basava su protezione e prestazione di servizi. Ma i casciavolesi non descrivevano una signoria pienamente sviluppata. Si trattava casomai di rapporti di scambio, di tributi in cambio di specifiche protezioni. Non si parla affatto di placcito, di albergare e tutti i resti. Invece, sarebbe stata la violenza degli anni 80-90 del secolo, quando giustizia morto a est, che avrebbe potuto forgiare una signoria formale da questo tipo di relazione di clientela, se i pisani fossero intervenuti. Il dominio locale dei da San Casciano evidentemente non era andato così lontano prima della morte di Beatrice nel 1076. Io credo dunque che il tratto più plausibile dell'undicesimo secolo sia rintracciato in un quadro che vede le famiglie militari estendere la loro protezione sui vicini grazie all'importanza politica e senz'altro l'implicita minaccia dei loro nuovi castelli, anche se questo tipo di clientela non venisse codificato in una serie di diritti territoriali giuridicamente definibili su quali si potessero basare stabilmente dei poteri locali fino alla crisi che iniziò negli anni successivi al 1080. In questo periodo comunque i signori locali e anche le città furono lasciati a loro stessi e si appropriarono dei diritti che riuscirono ad ottenere. A quel punto la natura del potere locale e la sua legittimazione cambiarono rapidamente. Le famiglie che si adattarono per prime a questa nuova politica signorile furono quelle più avvezze al potere pubblico locale all'interno della marca, cioè le grandi famiglie comitali. Intorno al 1050 queste famiglie si stavano già allontanando dall'esercizio formale del pubblico ufficio di conte e cominciavano invece, pur mantenendo i loro titoli comitali, a radicarsi maggiormente nelle loro proprietà private e ovviamente anche nei loro castelli. Occasionalmente faceva già uso di una terminologia civile. Per esempio, infatti, la prima volta in Toscana è un testo di 1046 in cui gli albanesi si riferivano a male consuetudine e placita, ai quali vincerebbero in seguito rispetto al monastero di Monte Ariata e alle sue proprietà. Chiaramente, non solo questa famiglia era in grado di esigere obblighi quasi pubblici dal monastero, ma essa, almeno i monaci, conosceva anche i termini italiani e internazionali per denominarli. Al momento questo è un esempio isolato, ma intorno agli anni 70-80 l'uso di tale terminologia divenne sempre più frequente nei documenti relativi a queste famiglie comunitarie. Già prima del 1100 controllavano consistenti territori signorili intorno ai loro castelli, definite in maniera ormai stabile, per esempio distretto e placita, come Biscia, Alico Uso, cioè cito un esempio di Capanno in Lucrezia, ma ci sono tanti altri. Erano in grado di estendere questi diritti con la forza, come attesta la nuova documentazione ecclesiastica. L'assalto albrandesco al monastero di Monte Ariata nel 1080 circa, per esempio, sembra abbia avuto in realtà lo scopo di stabilire una signoria, e su scala ridotta i guidi cercarono per alcuni decenni di imporre il placitum districtum malum usum et malum consuetudinem su Mogiona nel Casentino, possedimento del capitolo della cattedrale di Arezzo. E in effetti i guidi stanno già sviluppando quelle che si possono definire istituzioni signorili primitive. La prima testimonianza di un tribunale signorile in Toscana, 60 anni prima del primo esempio di un tribunale cittadino, proviene dalla zona di Rosano, ad est di Firenze, nel 1075. Registro tre visconti dei conti guidi che prendono un giuramento formale e successivamente confermano il loro bandum sul monastero di Rosano, che è proprietà dei guidi. Dunque, le famiglie comitali più abituate alla gestione del potere pubblico furono le prime a impossessarsi. È significativo il fatto che fino al 1100 i conti sono in assoluto le persone più associate ai riferimenti relativi ai diritti signorili nei documenti. Occasionalmente anche famiglie laiche, minori e chiese potevano avere a che fare con diritti signorili sui contadini. Non voglio elencarli, ma 6 o 7 esempi esauriscono la lista per quanto mi risulta prima del 1100. Tuttavia, l'uso nei documenti di un lessico signorile, almeno da parte degli albrandeschi e dei guidi, dimostra come esso fosse di fatto accessibile nel Toscano nell'undicesimo secolo. Io concluderei che per lo più non fosse ancora diventato patrimonio degli strati minori dell'aristocrazia. Cioè, lo sviluppo dal patronato informale al potere territoriale formale fu lento fuori dal ristretto gruppo di famiglie comitali. È appena documentato prima del 1090 e comincia ad essere esplicito più generalmente solo nel primo XII secolo. E questo chiarisce ulteriormente l'argomento secondo il quale solo la crisi della banca rese la politica signorile ampiamente accessibile ai proprietari territoriali, cioè ai proprietari fondiari. Le possibilità di questa crisi per loro, comunque, dipesero dalla loro preesistente proprietà, così come naturalmente dalle loro aspirazioni individuali e dai vincoli locali. Le permutazioni di queste variabili determinarono le grandi differenze tra le signorie del XII secolo, che è come si evidenza, è già in precedenza. Quindi uno di questi vincoli era rappresentato dalla città. Ma vedo che il tempo passa e sintetizzo molto il confronto che volevo mettere in evidenza fra la città e la signoria. Qui voglio dire solamente questo, quasi in maniera provocatoria, perché non posso portare gli argomenti in dettaglio. Spessissimo noi consideriamo il potere cittadino nel XII secolo come un potere pubblico, e invece la signoria rurale, la signoria territoriale come un potere privato. Questo non mi sembra di aiutare la la comprensione anche. Ad esempio, se guardiamo al tipo di giustizia che possiamo afferrare tra gli documenti, è chiaro che abbiamo moltissime sentenze con solare, solamente 6 o 7 sentenze di tribunale civili, ma non sono così tanto diverse nel loro tipo. Poi, quando ci sono dei rarissimi esempi di procedimenti criminali in campagna, sia di città che di signorie rurali, sembra essere abbastanza simile. Cioè, prendo un esempio, l'esempio di Lamporecchio nel Pistoiese nel 1221. Qui parte delle differenziazioni fra giustizia cittadina e giustizia signorile sono invisibili, e si trattava addirittura di una competizione sportiva. I casi di maleficia erano trattati, per quanto pare in maniera sommaria, da qualunque nunzius arrivasse per primo, sia che fosse stato inviato dal comune oppure dal vescovo, e l'altro che viene 5 minuti dopo, cioè era dato il pasto, era mandato a casa. Infatti questa procedura curiosa magari era anche frequente, perché c'è un esempio di Pisano a Nugola, documentato nello stesso anno. Effettivamente si potrebbe anche dire che la signoria ha delle stesse radici dello stesso comune rurale, nel senso che ci sono esempi toscani in cui la signoria e il comune rurale si sviluppano a pari passo, con ogni esempio della giustizia signorile in una determinata signoria. Cioè, penso per esempio alla signoria di Moriano, vicino a Lucca, e in realtà già all'inizio gestito dai consoli del comune. Cioè, man mano che la signoria si cristallizza, man mano che il comune si cristallizza, sono effettivamente la stessa cosa. Cioè, qui non voglio sostenere che la signoria e il comune fossero esattamente la stessa cosa. Voglio semplicemente dire che considerare la città pubblico e la signoria privata, to core, come farebbero alcuni teorici del diritto, non ci aiuta granché, perché le procedure locali per far funzionare il potere sul territorio erano in pratica molto simili ovunque. Numerosi giuramenti, pignorazioni, numerosi nunzi circondati da uomini armati, numerosissimi buoni uomini locali a disposizione per divulgare le attività di questi nunzi ovunque, sia in città che in campagna, sia in comune che in signorile. E nonostante le differenze, le relazioni sia comunali che signorili trovarono un'origine comune, e questo è il punto secondo me, nella graduale istituzionalizzazione dei rapporti in precedenze informali tra le persone, sia orizzontalmente, cioè comunale, che verticalmente, cioè signorile, nella società, come risposta a una situazione in cui le istituzioni pubbliche tradizionali, altamente strutturate e dedicate dal mondo carolingio, era definitivamente crollate. Cioè, questa è un'impostazione abbastanza volpiana, come molti di voi già conoscerete, ma ci sto in quella impostazione. Malgrado le certezze della terminologia che leggiamo nei documenti, facciamo di scritto, oppure civitas comuni, questi insiemi di rapporti si cominciarono molto informalmente verso il 1100, e solo verso il 1200 stavano stabilendo una forma pienamente istituzionale che potremmo, se volessimo, di nuovo chiamare pubblico. E poi era in quel momento, e non prima, che la vittoria cittadina condannò le signorie a stare nell'ambito del privato, o ovunque in Toscana, tranne nel comitato degli albardeschi, magari forse quello dei guidi. Cioè, c'è una gara per arrivare al momento pubblico e ai cittadini. E per quanto riguarda quello, basta. Queste caratterizzazioni sono per molti aspetti generiche, ovvio. Non possiamo facilmente avvicinarci ad una descrizione generale di qualcosa di estremamente eterogenea, come la signoria nell'intera area per Toscana. Se si vogliono comprendere le realtà per poter signorire, bisogna essere molto più specifici, concentrarsi su esempi individuali. Si carica così, meglio di quanto potrebbe fare in generalizzazione dall'esterno, la questione di quali fossero i parametri più importanti nel determinare il peso e la coerenza delle diverse signorine. Si otterranno anche molto più informazioni su come la signoria addirittura funzionava. E finisco con un paio di esempi su questo. Avevo preparato tantissimi esempi, ma ora che non posso, e nemmeno voglio presentare tutti. Ma presenterò due esempi dalla zona di signoria debole, come l'ho detto io, Figline e Castignano nel Fiorentino, perché è proprio quella signoria debole che è meno, che ha meno paralleli con altre zone italiane. Allora, per questo motivo vale la pena mettere in evidenza con più dettaglio. Figline. Era un fiorente castello e borgo nel Valdarno superiore, sulla principale via commerciale tra Firenze e Arezzo. Questa Valdarno, ai margini del Comitato dei Guidi, aveva al suo interno alcune forti signorie, particolarmente il castello molto militarizzato di Pianalberti, odierno San Giovanni Valdarno, a solo 8 km da Figline. E anche Figline, verosimilmente, aveva un territorio signorile già nel 1087, presto cioè. E non è comunque in dubbio il fatto che da quel momento in poi i suoi signori furono due famiglie locali di Vietes, di Attigi e Quinerdi, dal momento che queste due predominano nella documentazione relativa al castello fino alla fine del XII secolo. Tuttavia, questi non erano affatto i soli proprietari terrieri potenti. A Figline vi erano numerosi proprietari con pretese militari nella cerchia feudale degli Attigi e dei Guinelli, ma anche dei Guidi, anche del monastero di Passignano e a quelli volti di tutti quanti allo stesso momento. Forse per questo motivo, malgrado la militarizzazione dell'intera area, in effetti Figline fu attaccata 3 volte 80 anni dai fiorentini, tra il 1170 e il 1251. Malgrado tutto ciò, la signoria locale era appena visibile. Un paio di riferimenti all'Albergaria verso la fine del XII esaurisce la lista delle testimonianze degli obblighi signorili. E questi obblighi non appaiono nemmeno nell'abbondante documentazione di casi giudiziari relativi a Figline, casi, cioè di testimonianze e il resto che normalmente ci offrono un'ottima fonte per informazioni di quel tipo. Il comune di Figline appare negli anni 60 del XII e nel 1198 era già un interlocutore indipendente della Lega Toscana, in un contesto privo di riferimenti signorini. Eppure i signori rimasero molto vicini alla classe dirigente comunale, si testimoniano i documenti a vicenda e tutto il resto. Cioè, non si trattava di un brusco allontanamento dal potere signorile da parte del comune, si trattava semplicemente del fatto che qui la signoria non era sufficientemente coesa da sopravvivere allo sviluppo di una struttura locale alternativa. Con questo più con Figline, invece Castignano merita una trattazione più dettagliata e poi è l'ultimo elemento di questo discorso con Castignano, finisco. Il castello di Castignano, nel mezzo del Chianti fiorentino, rientrava nel districtus del monastero dello stesso nome, che è accanto al borgo di Castignano. In quanto tale fu studiato nel 1934 in una delle monografie classiche sulla Toscana rurale da Johann Pesner. Il castello aveva un numero rilevante di abitanti, ma il monastero esercitava un dominio politico molto più forte di quello detenuto da qualsiasi signore di Figline, un controllo che poi continuava, perché nel 13° tutti i notabili locali sia di Milano in città, e per questo che ha scritto il libro Present, e il monastero compra tutte le rotelle e si stende la sua dominazione a un via più d'opera. Questa signoria su Pasignano sembra sia stata circondata da un reticolo di signorie laiche facendo riferimento ai vicini castelli, tali Rofiano e Monte di Calde, distribuite in tutte le direzioni sulle colline da Chiati e con i signori dei quali il monastero ebbe generalmente dei rapporti piuttosto tesi. Soprattutto alla fine del XII secolo si verificarono veri e propri episodi di violenza, di piccole guerre, che furono poi ricomposti da arbitranti e che costituiscono un'utile testimonianza sul ruolo dei diritti signorili in quell'area. Questo mostra, almeno questa volta, che l'esistenza di territori signorili avevano un effettivo significato. In uno di questi arbitrati, risalenti agli anni 90 del XII, venne riconosciuto a Pasignano il diritto di espellere l'uomo dei corte sua o del suo distretto se non si fosse ritirato da un caso intentato contro un altro dipendente del monastero. Similmente, in un atto di cessione di Rainaldo di Malapresa da Montefalcone nel 1179, quest'ultimo prometteva di attenersi insieme ai suoi uomini al testo legale di anche lui di espellere de tota nostra et fortia bel districto chiunque tra i suoi sottoposti non avesse osservato il canto. Ma il quadro generale non appare affatto così nettamente come sembrerebbe da questi casi. Infatti il monastero, i signori di Monte di Calde e altri signori avevano retti di diritti signorili che si estendevano anche al di fuori dei territori sottoposti al loro dominio. In alcuni casi si può ancora parlare di signoria fondiaria, perché era comunque in relazione al possedimento della terra. In particolare, fare riferimento agli obblighi connessi ai coloni, abitanti sugli spazi appezzamenti di ciascun padrone, che venivano ad intersecarsi sui territori signorili. Questi avevano dei tributi, delle caratteristiche fortemente signorili. Prendo un esempio di un colono dei Malapresa del 1201, i quali dovevano uso, abuso, placito, districto, requisizione, exactione, dicendo. Anche però gli obblighi signorili erano delle volte del tutto indipendenti da restrizioni sia territoriali che proprietarie. Come nel caso dei piccoli proprietari di monte vicino a Pasignano, che Rainaldo di Malapresa rivendicò nel 1192 di tenuisse scutum in castello di Rofiano. Il monastero negò con successo che questi gli dovevano la prestazione di servizio militare, ma comunque l'abate riconobbe che essi dovessero comandizia e servizia nei confronti di Rainaldo che il monastero stesso dovrebbe pagare nel futuro. Questa mescolanza è ben rappresentata dal documento di vendita fatto nel 1210 dall'esecutore legale del defunto Rainaldo in favore del monastero, di cui si disponeva la vendita di un complessissimo lotto di terre e dei relativi servizi in gran parte all'interno dello stesso distretto di Pasignano. Si trattava della comandizia per monte, infatti ora questo è addirittura elencata, consisteva in un paio di caponi, una botta di vino e i suoi pani, quindi più una prestazione simbolica che non economica. Poi tre staie di grano dovuti dai lambari di Matraia, altro piccolo centro della signoria di Pasignano, il vino che due famiglie davano a Rainaldo pro districto, la decima dovuta allo stesso da altri notari locali, e così via. Non sorprende dunque, data questa confusione e sovrapposizione di diritti, che ci fossero momenti di tensione fra il monastero e principalmente il signore di Monte di Calde, tanto che durante questo periodo vi è traccia di costanti manovre fra le due parti. in alcuni casi si può parlare di una guerra di posizione in cui comprano terre dentro la signoria, peraltro rivendicano i diritti ad essere associati e via dicendo, ma ci furono anche vere e proprie guerre, come ho già detto. Per esempio, c'erano forse due fra Rainaldo di Malpresa e il monastero all'inizio degli anni 90, e nello stesso decennio il monastero attaccò il signore di Montecorvoli e anche sostenne un violento confronto con un notabile dello stesso borgo di Casignano, un suo fidelis di nome Borgiolino, un contrasto che incluse rivendicazioni a vicende di abigiato, incendio doloso, danni agricoli. In ciascun esempio, però, questa violenza semplicemente era un elemento strategico in una rete complessa di dispute che in ciascun caso portò al arbitrato. E cioè, i signori del Chianti volevano vivere in pace con i vicini, e solo che avevano in maniera un po' prepotente di dimostrarlo. Qui bisogna dire che ho già parlato per un'ora, ma ho ancora 5 minuti. Mi permettete? Sì, suppongo che non ci sia molto aperto, ma comunque non voglio occupare tutti i tempi. Questi arbitrati, invece, puntano anche in un'altra direzione. Ciascuno è interamente ad hoc. Consiste in una lode da parte di arbitri concordati che erano in ogni caso notabili locali. Anche se c'erano evidentemente i tribunali signorili, nessun documento al riguardo è sopravvissuto. Infatti, ma anche quando Bonolino e il proprio signore, il monastero, vennero all'arbitrato riguardante non solo queste violenze, ma anche terre e debiti, tutti aventi luogo dentro il distretto monastico di cui Bonolino è fedele, i suoi arbitri sono indipendenti, non sono i rappresentanti della giustizia signorile. E ci sono altri esempi. Questa società possiamo considerare più utilmente come un mondo ancora informale, dove il monastero di Casignano e il signore di Monte di Calle erano patroni di uomini armati e di notabili rurali, altrettanto quanto o piuttosto che signori di territori ben definiti. I diritti signorili, anche i diritti signorili territoriali, erano semplicemente pedine nel contesto senza fine di questa politica informale, insieme con i diritti di proprietà, i canoni, i decimi. Cioè sono semplicemente elementi in un gioco. E quando addirittura sentiamo di quanto veramente pesavano gli obblighi signorili, come in questo testo di 1210, non erano in nessun modo traducenti. I Chianti centrale, nel 1200 e anche dopo, era una zona in cui il potere signorile era un elemento politico sempre presente, ma non in una zona in cui le signorie si erano nettamente cristallizzate. E cioè, non si potrebbe dire che le signorie territoriali fossero in quest'area una base sicura per stabilire la dominanza locale. E in questo rispetto, penso che l'esempio di Casignano è un modello per le società di una parte molto consistente della Toscana del Nord. Qui, come ho detto, mi sono concentrato sulla situazione delle signorie deboli, semplicemente perché sono più atipiche rispetto alle realtà del resto d'Italia. E vale spiegare quando si può dire del funzionamento interno. Se però vogliamo spiegare le ragioni della loro perdurante debolezza, cioè fino al 1200 e anche dopo, ci imbattiamo in più problemi. Ho detto che la proprietà era molto frammentata in Toscana. Concentrare il potere in un solo luogo era molto difficile per qualsiasi signore, e scalzare i tentativi di altri di farlo era relativamente facile. Questo sicuramente aiuta a capire la situazione a Casignano, ma tutto questo comunque era altrettanto vero in una regione come la Lombardia, dove ciò nonostante la signoria territoriale ebbe un ruolo tutt'altro che marginale. Forse quella finestra, come noi diremmo in Inghilterra, di 50 anni, fra la cristallizzazione delle signorie lombardi verso il 1050 e l'avvento del potere cittadino verso il 1100, era sufficiente per creare un assetto signorile rurale con più forza istituzionale. Ci sono aspetti lombardi qui che mi possono dire. In Toscana, fuori dal sud delle montagne, quella finestra era molto più piccola, cioè breve nel tempo, con i comuni di città che appaiono proprio sulla scorta del fallimento della marca. Forse a causa di ciò la volontà politica di creare delle signorie forti venne meno, fuori dalle casate comitane. D'altronde molte signorie vennero presto in città, e le città toscane erano molto meno divise socialmente che non molte nel nord. Sto pensando delle differenziazioni a Milano fra Capitani e Vallassole del Civis, una differenziazione che manca ovunque in Toscana. Invece le differenze a scala più piccola nel potere signorile sono più facili da spiegare. I diritti signorili non avvicinarono mai nella maggior parte della Toscana al peso economico della proprietà terriera. Da ciò si può presumere che la distribuzione geografica della proprietà terriera sarebbe una guida migliore al potere locale effettivo di un signore che non la quantità dei suoi tributi signorili o la loro coerenza territoriale. E quella distribuzione di proprietà potrebbe magari servire per determinare l'intensità della stessa signoria. Perché ci furono pochissime signorie forti in aree dove i signori non erano anche proprietari consistenti. Viceversa, in villaggi che era sì dominato da un solo proprietario, anche i poteri signorili poterono essere veramente insolitamente grandi. In genere, ciò che fecero i diritti signorili nella Toscana centro-settentrionale era di estendere la dominazione locale che i proprietari già avevano a causa della loro proprietà. Una versione del XII secolo di una politica padronale che saliva a Carlo Magno e ai Longobardi, e quindi avvicina un po' ai commenti di Tito Benifatlenti ieri. Gli studi specifici di signorie, comunque, sia quelli che ho presentato qui che quelli su signorie più forti che presenterò in seguito, sono interessanti non solo perché contribuiscono alla spiegazione delle loro differenze, danno anche, come spero, un'idea di come si viveva dentro. Qui le signorie nelle zone della signoria forte sono forse più facilmente comprensibili. Erano la versione locale dello Stato, erano spesso contrastate dagli abitanti, le risultanti franchigie del comune rurale ci portano molte informazioni sulle modalità della vita locale. Cioè possiamo vedere o ipotizzare assai facilmente come il potere funzionava e come il potere strutturava le attività sociali degli abitanti. Il problema viene con voi come figli nel Passignano. Qui come si organizzava la gente in un ambiente tanto disorganizzato quanto quello che ho descritto per richiarti, questo è il problema. Qui penso che bisogna presumere che lo faceva tramite accordi privati, e qui ci sono elementi simili alla discussione della signora Fowler stamattina. Qui gli arbitri locali che abbiamo visto offrire soluzione a guerre locali presumibilmente danno un servizio simile anche ai suoi propri vicini, contadini che litigavano sui confini o sui pegni. Questo ambiente dovrebbe aver dato molta influenza locale a tali arbitri, che erano i buoni uomini del Chianti o del Darlington a Figline, normalmente i medi proprietari con pochi dipendenti, erano questi, e non i più potenti e i più militarizzati, che veramente organizzarono la vita locale della maggior parte della Toscana. Questi comunque anche verosimilmente controllavano i tribunali civili nei loro affari quotidiani e certamente controllavano i comuni rurali quando questi apparivano senza neanche rumore in queste zone. Io direi dunque che la mancanza di chiarezza del potere rurale di Toscana era nella realtà compresa al momento dai contadini interessati come strutturate dal potere e dal status, non dei signori dei grandi proprietari, ma delle elite di lancio. E le scelte di questi ultimi determinarono come le strutture sociali locali si svolgerebbero nella pratica. Ora, non voglio dire che Pasignano e Finine erano società egalitarie o pacifiche, però ho i miei dubbi sulla democrazia del comune rurale. I grandi signori si interessarono nella dominazione, non mantennero territori forti forse, ma potevano assoggettare i dipendenti più deboli con la forza, e lo fecero. Gli stessi con gli uomini erano violenti, come per esempio già citato di Bordolino. Una struttura coercitiva non era nemmeno presente perché era capillare anziché fermamente strutturata. Ma l'informalità che ho descritto almeno voleva dire che l'attività politica, incluse i tentativi alla dominanza politica, erano policentriche e di una complessità strutturale estrema. Cioè, queste erano società di miraggio, come sono anche adesso e come ancora conosciamo. E cioè, anziché essere spavonti noi dalla natura unificata della società di Casignano, o peggio, anziché provare a ridurla a una struttura formale legalistica che tradirebbe la realtà del XII secolo, noi potremmo semplicemente registrare queste evidenze con la prima, ancora frammentaria, documentazione dei quadri della vita rurale che si trovano anche ora. Basta, grazie. Grazie infinite, professor Wickham. Si vede che egli ha percorso veramente passo per passo la Toscana, oltre che frequentato del film. Ci ha dato una visione che a chi è toscano o a chi vive anche da molti decenni in Toscana ha chiarito che cosa è la società, la mentalità e la vita politica attuale di tante parti della Toscana. È stata una relazione finissima, condotta su un ambiente estremamente complicato e difficile perché informale. Vorrei soltanto chiarire qualcosa a cui egli ha invitato. Dankeschön. Ich werde doch versuchen, eine ganz kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Ich muss das wegen der Zeit, die ja auch noch für die Diskussion da sein soll, sehr reduzieren und versuche, Linien des Vortrages zu zeichnen. Ich hoffe, dass ich den Inhalt des Vortrags dadurch nicht verfälsche. Das ist eine Gefahr. Ich werde nicht ganz so getreu wie Monika Pelz dem Vortrag folgen können und sehe auch, wie schwierig das ist. Also das Beispiel Toskana. Anders als die Lombardei, die Signoria, ich möchte dieses Wort hier beibehalten, denn es wird gerade mit diesem Vortrag deutlich, dass das etwas ganz anderes ist als Herrschaft oder gar Grundherrschaft, ist insgesamt weniger bedeutsam. In dem Geflecht von der starken markgräflichen Macht, die dann erst in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in die Krise kommt, nach dem Tode der Markgräfin Mathilde, und der Entstehung der Kommunen, ich greife vielleicht im Voraus auf einen Teil, der ganz zum Schluss kam. Herr Rückem hat diese Zeit ein Fenster genannt, das in der Lombardei etwa 100 Jahre ist, vom Niedergang der Königsmacht in Italien von 1050 bis zum Aufstieg der kommunalen Macht. Und dieses Fenster ist in Toskana zeitlich viel kürzer. Und das mag ein Grund für diesen Unterschied sein. Wegen der starken Macht des Markgrafen haben wir keine Verleihungen an kleinere Herren von Beringer und von den Ottonen. Herr Wickham hat dann seine Analysen vor allen Dingen auf das lange 12. Jahrhundert bezogen, auf die Zeit von 1080 bis 1220. Die Standardelemente der Signoria sind die gleichen. Ich erinnere an die Aufzählung von traditionellen Rechten, die Sie mitbekommen haben. Das geht also von Anke, Placito e Distrito, also Gerichtsrechte, dann Abgaben der verschiedensten Art, der Agraria und so weiter, bis hin zu leistenden Diensten. Die Herrschaft übt mit dieser Hilfe dieser Rechte eine Kontrolle aus. Außerdem gibt es in Italien den Eid der Fidelitas ländlicher Untertanen in dieser Zeit, was, glaube ich, ein Unterschied zu Deutschland ist. Die Toskana zerfällt in drei Teile in Bezug auf diese Entwicklung. Der Teil um Lucca und Pisa, wo die Signoria in dieser Zeit fast abwesend ist. Das Zentrum, nördliche Zentrum, in der die Signoria aber auch in schlechter Form existiert. Und der dünn besiedelte Süden der Apennin, etwa die Herrschaft der Familie Guidi, wo starke örtliche Herrschaft sich ausprägt. In der Nähe von Städten ist die Signoria immer schwächer. Die Macht der Signoria ist schwer zu umschreiben, trotz der vielen Dokumente, die sie enthält. Und von dieser Aufzählung von Diensten, Abgaben und so weiter taucht immer nur ein Teil auf. Ich will die Beispiele nicht zu ausführlich reproduzieren. Lucca und Pisa wurden etwas ausführlicher gebracht. Aber das sollten wir vielleicht später nachlesen. Es geht also hier doch die Umschreibung zunächst von Städten und ihren Diözesen aus, was eben auch ein Unterschied zu den deutschen Verhältnissen ist. Das sollte man vielleicht festhalten. Und schließlich Florenz, wo die ländliche Aristokratie nicht so stark wie in den beiden anderen Städten gleich in die städtische Politik hineinzieht, sondern lokal verwurzelt bleibt, und zwar durch Castelli, durch Burgenbau. Ich gehe weiter. Siena, die Maremma, also das Schwemmlandgebiet am Meer, am Westen Meer, ist wiederum stark herrschaftlich geprägt, das fehlen die Städte. Dann drei Teile, von denen der erste am ausführlichsten hier ausgeführt wurde, die Ursprünge, Herrschaftsbildung A von oben, B von unten. Vielleicht sollte ich noch etwas sagen, was mir als deutschen Zuhörer stark aufgefallen ist, dass Herr Wickham mit der italienischen Forschung stark von einer Definition von öffentlicher Macht, Gewalt und öffentlichen Rechten ausging, die eben die klassischen Rechte der Markgrafen, der Grafen waren und die, so sagte er an einer Stelle, ein Erbe des Karolingischen Reiches gewesen sei und erst im 11. Jahrhundert sich langsam zerfasert habe. Und er hat für die Signoria den Begriff private Rechte gebraucht, was der italienischen Forschung entspricht, was, glaube ich, bei Deutschen Zweifel aufwirft, denn wir würden diese Unterscheidung ganz sicher in diesem Zusammenhang nicht machen. Ja, ich glaube, die Analysen im Einzelnen überschlage ich und komme zum Teil 2, Stadt und Signorie. Signoria, nicht Signorie, das ist ja eine städtische Form. Stadt und örtliche Herrschaft also. Und hier hat Herr Wickham sich gegen die historiografische Tradition gestellt, die die Gewalt der Kommune als öffentlich definiert und die Gewalt der Signoria als privat. Und er hat gesagt, das sei analytisch nicht hilfreich in diesem Prozess, in diesem späten Prozess der Auseinandersetzung zwischen Kommune und Signorie, denn das Vorgehen etwa in Bezug auf Gericht, Zwangsgewalt, Durchsetzung von Rechten sei ganz parallel bei, ob, ganz gleich ob die Kommune dahinter steht oder der örtliche Herr. Also hier diese Unterscheidung in Frage gestellt, das fand ich mir methodisch sehr interessant. Und beides, Herrschaft der Kommune, Hotel der Kommune und der Signore durchdringen das Land parallel, einmal mehr das eine, einmal mehr das andere. Das war der zweite Punkt, in dem eben die Kommune immer stärker den Contado sich angliedert. Ja, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, dass Herr Röcken sagte, um 1100 ist die Ausübung von Macht, also in der Mitte dieser Fensterperiode, informell, und das wiederholt sich dann später bei den Analysen im Einzelnen, während um 1200 die Ausübung von Macht sich institutionalisiert. Sowohl bei den Kommunen wie bei den Signoren. Und es gibt einen Wettlauf, um bei einer öffentlichen Gewalt anzukommen. Der dritte Teil galt dann der Analyse der Realität des Signorierungssystems, des örtlichen Herrschaftssystems selber. Und Herr Röcken sagte, das könne man kaum in allgemeinen Termini und umschreiben, sondern müsse es konkret analysieren. Und das hat er dann an zwei schwachen Signorien, örtlichen Herrschaften, also gezeigt von Philippinen, das hier auf der Karte ist, und dann Passigliano. Vor allen Dingen Castigliano, mitten in dem Gibianti-Gebiet und das andere Filiini, ja, beides südlich von Quarz, im Arno Tal. Beides Typen von schwacher Signoria, die für Italien untypisch ist, aber für die Toskana typisch und darum besonders interessant erscheint, wo etwa auch im Falle von Passignano die klösterliche Herrschaft und die Herrschaft örtlicher Signori, örtlicher Herren, in Konkurrenz steht. Und dann etwas, was sich sehr eng mit deutschen Vorträgen berührt hat, von Herrn Steiner und von Frau Vollerath, dass die Rechte nur, und auch die Gewalt, nur ein Mittel in einem strategischen Spiel darstellt, das indem man versucht, seine Herrschaft zu befestigen. Und das Seltsame ist, also dass eigentlich alle friedlich leben wollen, aber die Gewalt ein Mittel dieses Spieles bleiben müssen. Ich glaube, ich habe die wesentlichen allgemeinen Gesichtspunkte einigermaßen hervorgehoben, soweit es angesichts dieses komplexen Vorteils möglich war. Und möchte deshalb der Diskussion nicht mehr Zeit geben. Vielen Dank. Allora, iniziamo la discussione. Chi chiede la parola? Prego. Però, quando lei. deduzco de tu conferencia la importancia del siglo XI de los campesinos taoristas, los campesinos taoristas en Toscana, por lo menos en algunas áreas de Toscana, al igual que en la misma época en otras regiones europeas. Por otra parte, este proceso de militarización relacionado con el castelamiento, la existencia de límites, yo me pregunto si no estará, se puede poner en relación la aparición de estos límites en torno a determinados poderes señoriales con una paulatina desaparición de campesinos taoístas, en el sentido en que la, el conjunto de hombres libres, en la medida en que va desapareciendo, se va fijando la existencia de unos límites que pueden tener perfectamente esta procedencia común de hombres libres y quedar en una vinculaciones pseudo-asiáticas con estos poderes ahora radicados en los castillos, aunque sean unos poderes formales y unos poderes todavía poco desarrollados, determinadas aristocracias locales. Esto sería una pregunta. Aludistas y su relación con la configuración de límites. Por otra parte, yo quisiera que insistieras en la confrontación señoríos laicos, señoríos eclesiásticos, porque incluso en algún ejemplo como el de Pastiñano hemos visto y hay una evolución en el sentido de que estos señoríos existentes en el 11, señoríos de propiedad de la tierra antes de configurarse un señorío territorial, son fundamentalmente eclesiásticos y va a producirse en la etapa siguiente el ascenso de señoríos laicos, por un lado, y por otro lado las comunas. È chiaro che ci sono paralleli con la Castiglia, come sempre ci sono paralleli con ogni zona, ci sono comunque anche delle differenze. Questo processo di militarizzazione, cioè signoria, Castiglia e il resto, in Toscana è più che altro, almeno secondo me, un cambio di indirizzo culturale e politico di una classe di proprietari relativamente grandi che già esistono. E anche se ci sono esempi di piccoli alodieri che perdono la terra, non ci sono così tanti. Almeno, cioè, non voglio dire che i signori sono tutti gente squisita e il resto, anzi, ma che alla fine del XII secolo e nel XIII secolo ci sono altrettante evidenze di piccoli proprietari che non prima. Infatti la caduta della piccola proprietà in Toscana è il risultato dell'espansione della proprietà cittadina nel secolo che segue, cioè nel XIII, delle volte anche nel XIV. Ho sempre pensato io che il potere di queste milite si stende sui contadini, questo sì, come ovunque, ma solamente nell'ambito di questi diritti signorili. E hanno anche rapporti feudo-vassalatici. Ma i contadini rimangono proprietari spesso. Anche perché in Toscana c'è sempre una divisione netta fra proprietà e signoria. Il fatto che i signori hanno più diritti signorili non indebolisce i diritti di proprietà dei contadini. Poi per quanto riguarda se le chiese vengono per prime i signori laici dopo, no, non lo direi. In Toscana, e in questo senso Toscana è un po' speciale, ma in Toscana ci sono relativamente poche comunità e le signorie ecclesiastiche e le signorie laiche sembrano svilupparsi con lo stesso ritmo. Allora, Pasignano non è antecedente ai signori di Piemonte Teticale, probabilmente tutte e due hanno sviluppato i poteri signorili allo stesso momento. Sì, infatti raccolgo le domande da questo punto in poi. Sì, ci può interrompere. Vedete il traduttore che è conosciuto e concezione. Così è troppo, così va bene, ma come va bene. Non posso che condividere l'eccellente posizione del professor Wickham, e qui dei miei note, certamente non solo a me, grazie ai suoi giustamente celebri precedenti scritti. Sono d'accordo con lei in fondo e anche in moltissimi dettagli. La mia domanda riguarda quanto lei ha detto sul perdurare delle strutture politiche carolingie fino a una certa epoca che deve presumersi più avanzata rispetto a quanto non si è venuto in Italia del Nord. Vogliamo dire la lotta dell'investitura o più semplicemente la morte di Enrico III, per semplificare le cose. Allora mi chiedevo come lei si immagina che abbia potuto funzionare in concreto, effettivamente, il processo di risoluzione dei conflitti, non voglio dire l'amministrazione della giustizia, perché è un concetto troppo moderno. Lei ha dato molto in passato, e credo che tuttora dia molta importanza al fenomeno della transazione, del compromesso come mezzo di risoluzione dei conflitti. Ciò nonostante, lei accenna strutture. Quali possono essere queste strutture in Toscana, penso specialmente alla Toscana settentrionale, fino appunto all'epoca considerata, fino alla crisi della lotta delle investiture o alla morte di Enrico III? Vengono in mente le cariche riscontrine in alcune città, Pisa, Lucca, Firenze, anche Pistoia. Pistoria, anzi, è ricordato intorno al 1055 un placido, un visconte di Pistoia, nella montagna, per conto di Guglielmo Bulgaro, Comes. Istius Comitatus. Poi viene in mente la famiglia degli avvocati di Lucca, Fraiberto, vengono in mente gli antenati dei Giandonati di Firenze, ma poi non sappiamo molto di più di queste strutture nazionali. Allora, con questo contesto, volevo sentire il suo pensiero, conoscere il suo pensiero, su una questione che è stata un po' tracassè, diciamo, il problema dei rinciari e plebium che si incontrano dalla metà del X secolo fino alla prima metà del XII secolo con una certa frequenza, sia nelle contee di Pisa che di Lucca, che di Pistoia, che di Volterra, mi sembra anche di Firenze, di Arezzo. Questa curiosa tradizione rinciaria, in che senso può essere interpretata come appunto una sopravvivenza di quelle strutture? E devo anticipare che ho qualche dubbio che non si tratta semplicemente di un espediente, di un sinonimo puramente terminologico per indicare territorium, così come spesso avviene il territorium per invece di episcopato, per invece di contea. C'è anche l'Odiciaria, gli Odiciaria pistoiensi anziché come tanto pistoiensi. Mi conforta questo il mio dubbio sopra l'effettiva consistenza di questo indizio. Il fatto che già al principio del XI secolo una faida fra due signori del Valdarno viene decisa con un procedimento transazionale in cui la transazione caratteristicamente verte non soltanto sull'assetto da dare agli interessi, l'assetto definitivo degli interessi, ma sulla procedura con cui viene ricercato il diritto da applicare, che è una procedura che normalmente dovrebbe essere affidata al giudice, dovrebbe essere esperita davanti al giudice, la procedura non solo del giuramento, ma del duello o dell'ordalia per acqua medine. È un documento di Contibuono dei primissimi dell'undicesimo secolo. In definitiva, questi due signori si mettono d'accordo di esperire queste prove, queste ordalie, in un convegno che avrà luogo vicino a Figline, nella piega di Schermiano, quando piacerà una delle due parti, dal momento della stipulazione della fondazione fino al termine del concordato. Il che vuol dire che già a principio del XX secolo, almeno a livello delle classi più elevate, il disordine estremo e la tendenza alla fondazione come strumento più dominante era già ricordata. Mi volevo inserire sul discorso che ha fatto adesso il dottor Bartoli di Guslaghi. Anch'io io faccio riferimento all'area Arezzo e penso ai marchesi, a quella stirpe che in Umbria viene chiamata dei marchesi per antonomasia, di Marchiones, Marchiori, Marchesi di Colle e poi del Monte Santa Maria. Io ho presente per esempio il documento del 1044. Cambia la voce. No, è che c'è anche l'elettricità dell'aria. Lo dicevo appunto, per esempio, il documento del 1044 in cui alcuni buoni homines di Policiano, in cui capi Pasqui. Diciamo, arbitrano tra Ugo, figlio di Raniero I, Ugo Marchese, e la canonica d'Arezzo. In questa arbitrato è lo stesso Ugo, cioè una delle parti in casa, che dà la Lucio, che dà diciamo, il potere agli arbitri di rendere esecutiva la loro sentenza. Siamo nel 1044, quindi insomma, in cui diciamo, la malattia toscana è ancora titolare. Quindi anche questa è segno di disordine. Ancora, 1075. Sempre questa famiglia stende il suo bagno sulla chiesa di Monte San Savino. Quindi a prescindere da ogni riferimento appunto alla Repubblica. Quindi anche io mi unirei alla domanda che fa il dottor Gabriel, che rispetto a questa al ruolo della marca che avrebbe, diciamo, perlomeno non avrebbe favorito lo sviluppo della civile rurale. Grazie. Posso inserirmi io che ho preso la parola per un'incursione veramente, come sai, da profano estremo. Ma volevo, mi ha colpito molto l'uso che tu hai fatto di questo concetto di signoria debole, che considero molto importante per i nostri lavori, perché io mi rifaccio anche all'introduzione di Orante e quindi mi chiedo in che modo questa ipotesi, questa idea, questa categoria di una signoria debole, seppur limitata alla zona B della Toscana, quindi non voglio generalizzare, abbia comunque a che fare, possa comunque avere a che fare con il lungo svolgimento del problema della signoria, come l'ha prospettato anche Leonante nell'introduzione, fino allo sbocco eventuale, almeno dal punto di vista geografico, dal punto di vista logico, insomma, nella signoria territoriale. Questo concetto di signoria debole mi pare, d'altra parte, che riprenda spunti che sono già emersi dalla discussione di questi giorni, anche in altre relazioni. Soprattutto mi ha colpito molto poi la conclusione del tuo rapporto di oggi relativamente a questi buoni homines, a queste viti di villaggio, a questo ceto, se si può dire così, che potrei definire allo stesso modo come Barthélemy ha in qualche modo definito gli animali di Castagnetti questa mattina con una sorta di situazione intermediaria. Quindi signoria debole, situazione intermediaria, e anche la relazione che ci ha fatto Barthelemy ieri era molto di tipo debole, no? Rispetto alla ricostruzione della vera cosa. Ecco, tutto questo, questo debole tra virgolette, questo debole tra virgolette, che si nutre, che si presenta come qualcosa però anche di intermedio, che va però forse anche nella direzione del Genosse di Schastri della signora Forlat di stamattina. Quindi abbiamo debole, intermediaire, Genosse di Schastri, comunità. Tutti questi per me labilissime tracce di però una presenza sembrerebbe diffusa nel quadro generale del fenomeno della signoria hanno un senso, possono essere portate, non dico un modello, ma insomma qualcosa di più compiuto che non semplici tracce, e hanno un senso nella progress, insomma, del nostro discorso verso questo problema di storia costituzionale della formazione della segreteria territoriale, cioè di un potere moderno, più moderno. Questo è un po' il problema. Ecco, io credo di sì, e credo che il senso l'abbiano molto brevemente nel modo seguente. Che forse l'origine di una signoria territoriale, di un potere più modernamente organizzato, non va letto solo a partire dalla dimensione signorile, cioè dai signori terrieni o fondiati o rurali ai signori territoriali, ma va letto anche nel senso che la signoria territoriale più compiuta che si formerà più avanti ha bisogno, per poter essere pensata, di situazioni intermedie, di corpi intermedi, ceti intermedi, di boni homines o come si chiamano, che proprio perché a un certo punto vengono assimilati da una signoria più forte, danno a questa una base e una diffusione sul territorio e una legittimazione, una tradizione della gente, senza le quali appunto una signoria di grado più avanzato non sarebbe pensabile e possibile. Grazie. L'intervento di spiega è estremamente interessante. La funzione dei gruppi intermedi è molto valida all'interno di queste, per il fatto toscano io nel tempo non so quanto mica ha detto, ma per esempio per le zone lombardo-piemontesi, no? Poi non del Piemonte estremo, ma queste strisce di territorio che si collocano fra Lombardia e Piemonte antico, insomma, no? Per il Savoia e fino a Torino. In questa zona il problema è che quando arriva qualcosa di più evoluto, di più moderno, del comune, fa saltare le classi intermedie. Cioè, Ricca va detto che la crisi di questi personaggi, della piccola proprietà terriera e della media proprietà terriera, avviene proprio durante l'età comunale e avviene l'età comunale. Il sistema è semplicissimo. I cittadini impongono, prima, in un primo momento creano borghi franchi, ville nuove, attraggono questa gente, offrono anche possibilità di minori pagamenti, mercato, possibilità di effettivo guadagno. In un secondo momento impongono tasse molto forti per ragioni di guerre, e queste comunità non hanno i denari per poter pagare, e il mondo cittadino presta a loro i soldi a patto che vengano date le terre in pegno, e fin tanto che loro hanno terre da dare in pegno giungono i denari. quando non hanno più terre da dare impegno, né quelle private né quelle pubbliche del villaggio, o quelle che vengono considerate comuni del villaggio, a quel punto il prestatore cittadino incamera tutto. E dopodiché assistiamo a situazioni drammatiche, cioè di questi medi e piccoli proprietari terrieri che diventano, da piccoli e medi proprietari terrieri, livellari di quelle terre, quindi affittuari delle loro terre, e poi, fase finale, addirittura salariati su quelle terre. Questo serve anche a spiegare che la Chiesa nel 300 ha continuato a picchiare contro lo usura. Ma se non... Allora, chiedo scusa. Volevo finire, cioè vorrei riprendere invece il discorso di Wieckamp, che mi sembra molto interessante, sulla fase del XII secolo in cui interviene una situazione di mediazione fra appunto il potere signorile e questi gruppi mediani. Ecco, il potere di mediazione avviene quando non ci sono signorili in concorrenza. Cioè quando, per esempio, una canonica o altrimenti un monastero acquisisce la signoria territoriale, chiamiamola territoriale, perché poi il problema è la signoria territoriale, cioè si esercita su un certo territorio, però la finalità non è di esercitarla sul territorio, la finalità è di controllare gli uomini che stanno su quel territorio, tutti gli uomini. Mi sono spiegato, cioè, la finalità non è tanto il territorio per il territorio in sé, sono gli uomini che abitano sul territorio per il che interessa. Se invece le signorie sono in concorrenza tra loro, cioè su quel territorio giocano più signorie, a questo punto non è più pensabile di riuscire a trovare, cioè qualcuna usa un sistema drammatico, cioè usa la violenza. Ah, non c'è distinzione fra signoria laica ed ecclesiastica, ci sono anche monasteri che usano violenza anche notevole. Mi sono spiegato più dei laici. Quindi la situazione è in questi termini, pertanto fin dove è possibile, non lo so per gli esempi toscani che tu hai fatto, ma fin dove è possibile che ci sia un signore che esercita questo potere, allora il gioco nei confronti di questi gruppi intermediari di boni homines è possibile, i boni homines partecipano anche, cioè si crea una società molto compatta e quindi si crea un'unità fra dominus, boni homines e quel mondo dei rustici che non è di proprietà di terrieri ma è di massari, che però molte volte hanno nomi allucinanti, si chiamano Salvaticus, Ursus, così via. Quindi sono sì, di serie, non lo so, cioè persone che hanno forse una preparazione, chiamiamola così, culturale molto bassa. Se invece vi è concorrenza, vi è lotta. Momento lì. Fazione d'ordine deve parlare il professor Prodi. Sì, un istante solo, tento la sorte con questo microfono come ordalia. Adesso sta tranquillo, speriamo. No, io mi iscrivo. Comparate sulle situazioni toscane con quella d'Ulfranco, insomma, nel senso che io ho visto soltanto alcune carte pacis appunto toscane tra la fine del XI e XII secolo, però non di interesse spaventoso anche quando lo fanno come me, insomma, da questo punto di vista, cioè della partecipazione collettiva, insomma, alla nascita di un diritto, grazie a Dio. Le carte pazze sono una cosa di più di una lingua, è quello che volevo cercare di dire, rappresento, credo, un primo, una solidificazione, insomma, quindi volevo, ecco, il passaggio dall'avvocato alle carte pazze. Non fossero magari proprio quelli che, trasferendosi in città, entravano a far parte di un centro politico che non era più locale, ma continuava ad essere con funzioni intermediarie e robustamente ancorata all'affermazione del comune, adesso comune cittadino e di Firenze, no? Mi veniva questa battuta un po' di superata, perché ricordo che quello che è arrivato in costiera, perché anche a me, in relazione alla conclusione di Wickham, veniva da notare proprio questo, c'è una tendenza che mi sembra generale in questi lavori, lo dico dall'esterno, dal profano, a, come dire, non dico dissolvere, ma rendere più pallidi i caratteri dei concetti, di certi concetti, no? Signoria o di signoria. Ecco, e io credo che le stesse persone che a suo tempo hanno elaborato questi concetti fossero benissimo consapevoli di certe cose che sono state dette qui, cioè di gradualità in tempi, di non polarità fra concetti, no? Era il concetto, diciamo, forte, la proposta di un nucleo di organizzazione di dati, no? Che non escludeva ovviamente il fatto che ci fossero poi sfumature, differenze, gradualità cronologiche, eccetera. Ora, io mi chiedo, proprio nel senso che del giochiera, se questa viceversa tendenza, io non so, e questo vorrei chiedere, se il concetto di signoria debole che Wickham ha proposto per la Toscana l'ha proposto, diciamo, perché tutta la signoria in Italia è debole, o viceversa, per contrapporre una signoria debole toscana a una signoria più forte in altre regioni d'Italia. Ecco, quindi questo è un punto preliminare. Ma indipendentemente dal concetto di signoria debole, restando alle conclusioni di Wickham stesso e a questo tono generale che mi sembra di cogliere, mi chiedevo anch'io come schiera se a questo, diciamo, tentativo, non dico di smantellamento, insomma di ridiscussione di certe strutture più tradizionali, possa corrispondere qualcosa in positivo, cioè il prefigurarsi, per quanto fatto, di un paradigma, ecco, o di un criterio di tipo diverso, che però, ecco, mi sembra diventi a sua volta molto debole se il punto di il parametro sono i quadri di vita rurale contadina della Toscana contemporanea, insomma. Adesso non so se ho capito bene o male, ma mi sembra che sia un trasferimento su un piano di un discorso, come dire, antropologico, di un problema che della mentalità. E ma anche questo, d'accordo, ma c'è una storia della mentalità, no? Come c'è una storia, comunque mi fermo qua. Finito. Volevo fare due domande, sono semplicissime domande. Hai citato il califfo vecchio e la quantità di giuramenti di fedeltà sia di signori che di comunità rurali nei confronti di Siena. Questa è una particolarità senese derivata dalla particolare fonte che si è conservata, o ci sono tracce in quale misura nel resto della Toscana di questo uso massiccio del giuramento di fedeltà? La seconda è qualche parola sulla lunigiana, che immagino sia di caratterizzazione 3, però mi farebbe piacere qualche frase. Now, I was very interested to hear this talk about the body communities. It appears that we have the same institution, let's say, in the German sources only. We have very few means to establish where they come from, where they are to be associated with the community, the local communities. Do you have more information on them in your sources, in your Italian sources? Anche perché, essendo così il tempo, noi pensavamo di partire alle 6, per andare un po' anche a spasso, ma credo che ci conviene andare direttamente al ristorante, quindi dall'autobus qui si scende al ristorante. Quindi voglio dire, non siamo vincolati alle 18 nel senso. Circa l'obiezione del dottor Marco Burlari, importantissima, delle strutture politiche amministrative carolingie e del loro perdurare. Io sono un po' perplesso, ma cercando nella memoria di trovare qualche cosa, penso giustamente ai discorsi, anche ai discorsi, ai quali tornava il dottor Franco Luzzani, perché in Toscana almeno, ma pare non soltanto in Toscana, ma in Toscana è documentato e studiato, ci sono dei discorsi territoriali. Penso ai discorsi di Cucchiaio, che ritengono le cose di Pistoia, e ad altre ancora. Quindi sono degli scontri che avevano dei poteri limitati a una certa zona ben precisa, ma che riguardavano tutti quanti possessi a qualsiasi titolo dei conti in quella zona. Quindi questo potrebbe essere una forma di potere locale. Quando la giudiziaria, il giudiziario è un tormentone, veramente un tormentone, il giudiziario del bene. La giudiziaria, che indica il territorio della Pieve, si trova in Toscana, non in tutta la Toscana, in alcune zone del Pisano no, nella Maremma no, ma si trova in molte zone, non in tutte, in molte zone della Lucchesia, dal Giorgio di Lucca, in alcune zone del Giorgio di Pistoia, di Firenze, di Fieso, di Arezzo e anche fuori della Toscana, ma ha una diffusione limitata. E questo è tentante pensare a una circoscrizione pubblica. Mi deve spiegato il perché di questa area di diffusione strana ma ben delimitata. Poi il Wickham ha parlato di signoria debole e informale, di San Miguel di Noi, di me certamente, che esiste anche un feudo debole, anzi direi soprattutto informale in Toscana, dove è quasi quasi ha il feudo alla medesima cronologia della signoria. E quindi bisognerebbe pensare unitariamente a queste due cose e quindi a un fenomeno culturale che riguardi sia lo sviluppo della signoria, del sistema signorile, o lo sviluppo del regime feudale. Inoltre ho notato una cosa, è molto giusto che Wickham, come ha detto Wickham, che le prime signorie territoriali di una certa importanza nelle zone in cui la signoria non è molto diffusa sono signorie di corti. Ma c'è una differenza tra le signorie dei grandeschi, signorie dei carolingi, eccetera, eccetera. È molto interessante però vedere che, a differenza di ciò che avviene in altre regioni, soprattutto nel Piemonte, in Lombardia e anche nella stessa Toscana meridionale, parlo al territorio degli Aldobrandeschi, e settentrionale parlo al territorio dei Guidi, tra Toscana e Romagna, queste signorie dei Grandeschi, dei Padovini, eccetera, non si trasformano signorie territoriali alcuni membri di famiglie comitali, di molti membri di famiglie comitali, molte signorie di castello, non si trasformano mai in embrioni di una nuova circoscrizione politica del livello comitale. Io non so, ma mi domando se queste signorie comitali che prendono il nome da un castello abbiano i poteri signorili più elevati, abbiano i poteri dell'alta giustizia, invece le signorie comitali del sud della Toscana, che sono l'embrione di quella formazione politica che giustamente il Wicca è arrivato a definire Stato. E così a nord il comitatus dei Guidi, il titolo di conti Guidi, che non è originario, non si sa di dove sia venuto, non si sa se erano conti di una tale città o dell'altra, come dell'origine, ma conti di Pistoia, di Grandeschi, ma conti di Volterra, eccetera. Le signorie territoriali dei conti Guidi hanno dato luogo a un nucleo di potere che ha costituito il comitato dei conti Guidi. Infine, ok, provo a rispondere. Per fortuna molte di queste domande si combaciano tra loro. Per quanto riguarda l'undicesimo secolo e il momento della tavola monarca, sicuramente non voglio negare gli elementi di potere privato in Toscana. Ci sono in Toscana nell'undicesimo secolo una ventina forse di accordi privati come quelli di Cotribuono. Questi sono normalmente abbastanza rudimentari a livello formalaico e molto più rudimentari degli accordi parrei del secolo seguente. Io tendo a considerarli come, cioè, se si prende i sistemi privati, i sistemi privati per molti, noi lo consideriamo la giustizia normale dei paroli, va bene, e lo è, ma in pace ciò avviene tre volte all'anno forse. Sicuramente ci sono più giustizie in una determinata circoscrizione che non possono essere sentite anche sommariamente attraverso un partito, a parte il fatto che è facile sempre avere interi fare con questi. Ma in ogni società ci sono accordi privati. E almeno alla fine dell'VIII secolo, all'inizio del IX, alcuni di questi accordi privati sono già documentati nei documenti lucchesi. Io supporrei che la cosa che succede è che questi sono considerati così talmente privati in queste zone che non vengono registrati per molto tempo. Non mi pare caso che il primo gruppo di accordi privati dell'Italia centrale almeno è il gruppo Parfense dell'undicesimo secolo, perché questa è una zona schiettamente marginale. Cioè lì l'idea che non è la vera e propria giustizia, fra virgolette, che è quella del Deogracito, forse vale meno. Nell'undicesimo secolo stanno mettendo giù sulle pergamene solo casualmente accordi di questo tipo, ma immagino che è la maniera normale di la giustizia, e penso come tanti, anche se è difficile individuare le prove, che è da questo che proviene la giustizia cittadina, cioè la sua frizzata nella crisaglia del tribunale e tutto il resto. Che troviamo esempi di questo nell'undicesimo secolo, non mi soffermo perché ugualmente, cioè come chiaramente mostrato quel bellissimo articolo sull'auditorio, ci sono accordi privati a livello militare anche. Cioè questo tipo di rapporto privato c'è sempre, utilizzando la parola privata nell'eccezione normale italiana. È chiaro che questo tipo di accordo deve essere la base di moltissima della vita locale dei toscani per tutto il periodo antecedente, il 1100, semplicemente perché le strutture pubbliche, anche se esistono, sono molto, molto popolari e molto visualizzate e non accadono tanto spesso. Poi il fatto che ci siano esempi relativi prima di le altre zone in cui soprattutto i mafiosi, che sono pure casate comitate come poche, rivendicano o almeno occupano diritti di questo tipo, cioè quello di Corsa Sabina è stato denominato per esempio da Tabarro quasi tacito. Quasi placido non so, ma almeno non importa esattamente che cos'è quel documento, da parte di quello. Ma comunque l'Aretino è la zona dove si vede meno, si vedono meno i marchesi di Tusci. Già verso l'anno 1050, verso il Conte. E lì allora direi che in un certo senso siamo fuori dalla marca. E allora è proprio lì che si aspetterebbe di vedere formalizzazioni di diritti di questo tipo. Secondo me, cioè, tutti questi esempi che sono importanti, e ci sono altri, entrano dentro il discorso che ho messo in evidenza. E cioè c'è sempre, e questa è una realtà attraverso tutta Europa, c'è sempre una differenza solo relativamente lieve fra il potere pubblico dei carlingi o chiunque e il potere privato di qualsiasi signore, perché tutti quanti operano dentro una gamma di possibilità di uomini armati che quelli che sono vestiti a stare sotto il loro potere, eccetera. Cioè, alla fine siamo sempre con uomini armati, è il problema di chiedere cosa stanno. Ci siamo anche con i gruppi temeri a quanto. Infatti, cioè, salto il commento di Schiaffo, perché anche perché voglio tornare a un po' più meglio. Per quanto riguarda la Lunigiana, anche qui infatti ho tolto un tratto proprio all'ultimo commento che diceva che non volevo trattare la Lunigiana perché non fa parte della nave di Pisce. Cioè entra dentro un tipo di sviluppo del tutto diverso, perché questa è la nave opera tenga, e lì c'è una precoce civilizzazione, e già si parla in termini di signorie di Bacita e tutto il resto negli anni 30 dell'undicesimo secolo, anche se ci sono pochissimi documenti, sono tutti estremamente simili, quando si passa le acquane cambia del tutto il sistema di potere, come quando si passa l'Appennino, direi io. Non penso di essere la prima persona di dire che gli stessi Canossa hanno una marca in Tuscia, ma un marchesato nel nord Italia, che è basato su un insieme di poteri molto più informali, una nuova territorializzazione, che invece in Toscana agiscono come marchesi di Stato Carolino. La Unitaria Plebis, io minimizzerei la Unitaria Plebis, ho passato un po' di tempo a cercare evidenza che questa parola giudicaria abbia uno sfondo addirittura giurisdizionale. Alla fine ho concluso che non ce l'ha, utilizzato come sinonimo di territorio, e non ho mai trovato un esempio di una specie di diritto laico che abbia a che fare con questo territorio. E seguo anche questo studio Lanzi quando ha parlato di Crazy in Aretino in un suo articolo su Necrotti vent'anni fa. Ho provato di trovare qualcosa lì, alla fine non sono riuscito, l'ho scoperto. Allora, che altro c'è? Per arrivare a questi incendi intermedi, voglio dire che, e questa è una risposta a chi tu dici, non voglio dire che tutta la sinistra in Italia è debole. Qui ho voluto mettere in evidenza un contrasto fra la Toscana, in cui c'è la Toscana del centro-nord, e moltissime zone del nord dove la struttura civile è ben una differenza. E cioè, io sarei... cioè, è un po' paradossale. Come ho detto ieri parlando con Bartolini, io direi che ci sia un cambiamento, che in Lombardia, per esempio, c'è un lento cambiamento a livello politico, ma il risultato è una struttura territoriale estremamente radicata, estremamente diversa da quella preesistente. Allora questo è il senso, questo è un cambiamento, cioè non bisogna nominare, ma un cambiamento grosso. Invece in Toscana il cambiamento politico è molto più brusco. Cioè in 20 anni, 30 anni non abbiamo più un effettivo potere nazionale, ma abbiamo invece le città. Cioè 20-30 anni non sono neanche se paragoniamo la faccenda con la sorte dell'Unione Sovietica, ma comunque è relativamente veloce nei termini del potere territoriale, del potere terriero, meglio dire, del Medioevo. E cioè proprio quel brusco cambiamento per me, e qui sto ipotizzando francamente, il risultato per me è che tutti gli elementi locali che troviamo in altre zone, signori, comuni rurali, forse anche altri, forse anche, però come c'è del nuovo di insistere sulla Barocchi, perché non sto pensando alla Barocchi, ma almeno signori comuni in campagna sono più deboli, perché sono quasi nati in concorrenza. Si indeboliscono a vicenda. Anche se, e voglio dire questo, ho volutamente dato l'impressione di una Toscana incredibilmente informale, con una serie di realtà ad hoc che sono estremamente difficili ad individuare, ma comunque verso il 1150, anche se hanno una realtà più debole, tutta l'infrastruttura del potere locale che si aspetterebbe a trovare in Lombardia si trova anche in Toscana. Cioè c'è una serie di istituzioni, anche se sono messi giù in una maniera più debole, che comunque esistono. Per tornare a Ceti Medi, ci sono varie cose qui. Una cosa di cui sono convinto è che le scelte di questi meglio ceti intermediari, queste elite, le scelte di queste elite sono quelle che sono più importanti per il reale svolgimento della società. Ma queste ci sono esempi di signorie estremamente forti e lì giustamente ci sono contrasti. Su questo non ho insistito perché volevo mettere in evidenza queste altre realtà, ma non voglio negare che ci siano casi classici come San Casciano della Difesa o Abadia San Salvatore su Montecchiaia, che sono classici contrasti cioè stile francese, cioè in tantissimo senso francese parli di questi, perché il francese vedevo questi documenti, anche se non lo dimostro. Ecco, ma qui si potrebbe dire, cioè questi eliti di bilancio stanno un po' comune, cioè in questa situazione la signoria è troppo dominante e domina anche loro, è molto meglio per loro stare con i vicini e essere il leader di questi vicini, anziché stare con il Signore e essere i rappresentanti locali del Signore. E sono probabilmente tutte e due, sono sempre tutte e due, ma dipende alla situazione locale quale scelta fanno. E tu facevi una battuta, magari il fatto che i comuni sono deboli perché sono tutti andati in città, di questo sono assolutamente sicuro. anche questa è una scelta. Cioè vanno in città e poi c'è poi lì nel basso medioevo una versione apparentemente non mediatizzata di potere cittadino in campagna, ma cioè le mediazioni sono dentro le città, non fuori. Ma anche lì bisogna che la città mandi il castello, mandi un nunzio per fare qualcosa in villaggio. Perché cioè, è sempre necessario mantenere un'egemonia. Perché i contadini non vanno necessariamente alle armi, ma i contadini possono dimenticare a pagare i canoni, i contadini possono far marciare il grano, i contadini possono fare qualsiasi cosa. Sì, cioè, sicuramente gli alberi lo faranno se non sono convinti che c'è qualcosa nel mondo cittadino, tipo i rituali che ha studiato per coinvolgere la vita della città. Vabbè, non posso continuare per sempre, ma ci sono due altre cose. Uno, non voglio appiattire il cambiamento sociale. Tagliando, quando stavo parlando, ho appiattito il fatto che anche se la società di villaggio del XII secolo è una società di villaggio come la conosciamo noi, non vuol dire che non ha cambiato. E purtroppo Elio Conti è morto prima di portare a termine il suo studio su come una società del Fiorentino, in particolare della Cassiniana, poteva svilupparsi fino ai giorni nostri, con tantissimi cambiamenti. Volevo semplicemente dire che il gioco del potere dentro un villaggio è sempre multiforme, e questo anche in una signoria fortissima, perché c'è lì il gioco di come raggiungere il signore. Non è il caso di inquadrare questo troppo, soprattutto non con la terminologia giuridica. E in genere io direi questo alla stiera che non c'è. Che se questo si avvicina al tipo di idee come c'è. Se questo si avvicina a concetti come the Nelson Charles Reds. Sì, c'è anche non ho detto che non c'è già re. Ah, ecco, ma detto che non c'è già. Ah, ecco, ma questo è il fatto. Sì, che non c'è già, no re. Ok. Cioè, che ci sono i costituti. I'll explain this to you later. Sì, che ci sono i costituti, ma c'è anche una pratica. Io vedo la situazione locale in questi villaggi come una serie di pratiche che si può negoziare, che si può barattare con queste pratiche. Cioè, questa è più o meno, se questa è l'antropologia è stile di Bourdieu, che per me è un maestro, che bisogna, cioè, che ogni regola ha una maniera per girare, cioè, è un concetto che dovrebbe essere abbastanza di casa in Italia. Come le regole vengono aggirate, questo è il problema storico. Per dire, I'll speak in English to end, yes, we've got obstacles about money on this, in that we've got so many private charters that you can find someone who is Parmesan Rock, you can follow his career sometimes, you can construct platforms taking pictures. Sometimes they're big people, sometimes they're small. It depends on the individual village or locality, castle, whatever. Normally, they are at the top, but it depends how rich the top are, how rich they are. I bet that's common in the rest of Europe. Ma con questo finisco, se c'è qualcuno che voglio dire. Grazie a tutti.